Oh, senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Pensavo di essere io l'unico vero malato di zanzara e invece oggi, alla biblioteca di ingegneria, alla mia destra, uno mentre studiava scienza delle costruzioni, un esame impossibile, ascoltava la zanzara. Siamo al top. Ragazzi, scrivo la tesi di laurea e sento la zanzara in podcast. Il problema è che ogni due parole mi fermo. Mi viene sempre da scrivere le puttanate che diceva Renzo. Evviva il cane dildo! Pensate agli agenti di commercio quando alle 6:30, finalmente, con le palle sudate, le ascelle che puzzano, la forfora sulla giacca, le scarpe sporche di fango, salgono in automobile, accendono la macchina, accendono la radio, mettono la zanzara, fanno una bella scoreggia silenziosa e partono verso casa, pensando che in fin dei conti la vita non fa poi così schifo. Caro Parenzo, questa sera vorrei iniziare con due notizie un po' serie, che sono di queste ore, di ieri, eccetera, e che insomma in tempi diversi sotto Berlusconi avrebbero fatto incazzare moltissimo, avrebbero fatto, non dico scendere la gente in piazza, per carità, no, però no, si potrebbe dire, se ci fosse stato Berlusconi ci sarebbero state proprio mobilitazioni, editoriali di giornali, eccetera eccetera. La prima notizia è questa: dopo le rivelazioni dell'amico faccendiere Carboni. Sì, non Luca Carboni. No, Luca Carboni, ma com'è che si chiama Carboni? Francesco. Francesco Carboni, faccendiere, eccetera, eccetera. Si viene no, a sapere. Faccendiere, che sto, no, stai attento. Beh, faccendiere, no. faccendiere. Comunque, si viene a sapere. Io ho sempre un'idea su questi qua che si fanno vedere in televisione. Quando cominciano a parlare, significa che non contano più un cazzo. Cioè, quando cominciano a parlare, a rivelare, c'è un faccendiere, uno che fa. Mette in conto. Chi lavora dietro le quinte non va davanti alle quando quinte. Quando parli e quando vuoi diventare protagonista, questo vale anche per Bisignani, in teoria, non lo no? So. Beh, significa che il potere è diminuito, ma comunque lasciamo perdere. Dopo le rivelazioni di tal Carboni, si viene a sapere che il titolare dell'inchiesta, pensa come iniziamo seriamente stasera, si viene a sapere che il titolare dell'inchiesta sulla banca, su Banca Etruria, è consulente anche di Palazzo Chigi, pagato, retribuito, Rossi indagò Boschi Senior per turbativa d'asta e poi estorsione, eccetera, eccetera. Era il 2013, successivamente ha archiviato. Nulla di strano? Nulla da dire? Niente di particolare? Ah, se fosse accaduto sotto Berlusconi. Flavio Carboni, che Francesco, manco sai Flavio Carboni, dai, Flavio. Ah, Flavio. Flavio, dai. Il candidato a sindaco a Milano del centrosinistra Sala, signor intanto Sala. un momento. No, basta. Abbiamo aggiornato il palinsesto della Radio 24. Stamattina, svegliatomi molto presto, ho preso il giornale con solo i 24 ore diretto da questo napoletano di cui non voglio neanche fare il nome. Cambieremo ovviamente quando arriverò la Confindustria. E vedo che tra i programmi c'è questo straordinario Tutti Convocati. Dico, oh, boh, meno male. È la parola d'ordine che usavamo negli anni 60 quando occupavamo la statale. Dicevo, tutti convocati, compagni e compagni. Dico, benissimo, evidentemente è una trasmissione sulla guerriglia urbana. Accendo sulla radiostazione e mi trovo questo signor Genta. Continuavano a dire Genta, dico c'è della gente in piazza, e invece è tal Genta che non so che. E questo signor Pardo, uno che Pardo si chiama di cognome, mi pare. Sì. Parlavano di calcio, una cosa che era da prenderli a calci nel culo con i problemi del paese. Parlavano tutti convocati, pensavamo fosse un manu- male per la guerriglia urbana. Ho dovuto fare immediatamente un esposto e sabotare le antenne della radio. Vabbè, meno male che si è spento subito oggi. Abbiamo ricevuto diverse telefonate di protesta in cui dicevano... Pronto? Sì, chi è? Parenzo, sì. Sì, ciao. No. No, è il solito Capanna che si inserisce. Speriamo per l'ultimo giorno, Dicevo di Sala, candidato al centro-sinistra a Milano, il quale si è fatto rifare la villa in Liguria, circa 70-80 mila euro di lavoro, però, e questo nulla di male, uno si può rifare. Però, amico mio, anche qui non ci sarà nulla di losco sotto, per carità. Forse una leggerezza... L'avesse fatto un altro l'avrebbero massacrato, poi tu, per carità, tutto fatturato, regolare, eccetera eccetera, però è lo stesso architetto che poi ha preso non 100.000 euro di lavori come ha detto Sala, forse in maniera un po' imprudente, ma 800.000 euro di lavori, lo stesso architetto, tutto normale. Oh, non lo so, dite voi, non lo so, magari mi sbaglio io, L'altra cosa che mi ha fatto incazzare però è un'altra. La Camera o il Senato, non mi ricordo, ha deciso di dare 400, è una piccola somma, piccola, insomma, piccola rispetto al bilancio dello Stato, 485.000 euro ai partiti, ma non ai partiti che ci sono adesso, che pure è uno scandalo e continueranno a prendere soldi pubblici fino al 2017, ma a partiti che ormai non esistono più, a partiti defunti, a partiti morti. I quali si vedranno un incasso. Che ci faranno questi? Andranno ai capi bastone? Andranno ai segretari ormai che non esistono più, a gente in pensione? Dove andranno questi soldi? C'è l'Udeur, l'API di Rutelli, addirittura il movimento Ristorace, l'MPA di uno che è indagato in galera, addirittura il signor Lombardo, per carità, adesso non voglio accusare nessuno, l'UDC di Casini. Cioè, piglieranno tutti i soldi perché non per regole assurde che si fanno loro, 485.000 euro a partiti defunti! Mi sono fatto pure male, tutti pazzi per la signora Leosini, che ha intervistato Rudy Guédé. Rudy Guédé è l'uomo di colore, l'uomo nero, che è l'unico colpevole fino a questo momento del famoso delitto di Meredith Kercher a Perugia. Condannato in concorso, ma non si sa con chi. Sì, con chi, perché gli altri non ci sono, cioè sono stati assolti. La sentenza in cui dicono è stato lui, ma pazzesca, condannato, perché da solo non poteva averlo commesso, in concorso, e diceva con chi? No, questo non lo sappiamo. Poi la signora Amanda Knox e credo anche Sollecito hanno querelato Guédé per le sue affermazioni. Vabbè, non entriamo in questi dettagli. No. La cosa curiosa della Leosini è il modo di trattare le questioni sessuali, che alcuni hanno detto con una certa grazia, con una certa eleganza. Io devo dire che non mi iscrivo a questo fan club Leosini. Ma non per questo, no, perché è bravissima, meravigliosa, eccetera. Però non sono uno di quelli che va a esternare come fanno molti. Ah, che cosa meravigliosa, che cosa bella. Non lo so, non lo faccio. Semplicemente guardo, mi piacciono alcune cose, altre meno, punto e basta. Non sono di quelli che vanno a scrivere dappertutto una cosa straordinaria, se non ci fosse lei. Però se uno si è piaciuto, ma che puoi cazzo ti esterni? Ma che cosa esterni per visibilità, per tua visibilità, per tuo esibizionismo? Cioè, ti piace, lo condividi. Ma dai, è un esibizionismo assurdo. Come quando tu parli di basket, di calcio, dici mi è piaciuto quel gol. Cioè, benissimo, mi è piaciuto. La signora Leosini, i preservativi di Guédé, stupendo. Mi scusi tanto, ma insomma, lei andando a casa la Meredith per questo appuntamento. Si suppone che lei non pensasse di parlare di filosofia o dei massimi sistemi. Veramente. Ecco, scusi, ma come mai non si è portato il preservativo? Perché poi sono oggettini che in generale si portano i maschietti, insomma. Quindi Rudy salta in meglio della serata. Poi dice di aver fatto solo petting. Petting con la signora Meredith, che poi è morta, per carità. Leosini. Nella vagina di Meredith, chiariamolo subito, non c'erano tracce del suo sperma, Rudy. Né tracce del suo sperma erano presenti su altre parti del corpo di Meredith. Ma il suo DNA, Rudy, rilasciato con evidenza da cellule epiteliali, cellule epiteliali di un dito, ecco, erano presenti nelle parti intime. Non nego il fatto che c'erano. Comunque, una cosa va detta, che lei ha detto che con Meredith aveva fatto petting prima. Nel soggiorno. Quindi nel soggiorno. Quel dito birichino sostanzialmente aveva così, insomma, avuto la sua così ragione di essere in un momento intimo, diciamo. il ditino birichino. Stupendo, devo dire, meraviglioso, eh? Perché il ditino birichino è meraviglioso. Ma è di una classe, di una... Pure tu ti iscrivi al fan club là, no, di quelli che stanno lì stile, a fare le cose. No, mi aspetta piace un lo attimo, stile aspetta con un attimo. A un certo cose, punto dice che hanno trovato il colpevole il negro, dunque dice sostanzialmente di non essere colpevole. Altra cosa, questa strana, a un certo punto vede il sangue, eccetera, poi ha scritto sul muro col sangue, lui, cioè lui ha preso il sangue, ha messo il dito nel sangue, ha scritto delle cose sul muro. Ma è una cosa pazzesca. Meredith addirittura cerca di dirmi qualcosa, questo suono aff, aff, che poi io tenterò di scrivere le lettere sul muro. Col sangue? Col sangue, sì, perché c'avevo le mani insanguinate, perché nel mentre tentavo di soccorrerla, anch'io mi sporco le mani col suo sangue, no? Ragazzi, come avete visto, non ho pronunciato la parola Sarri Mancini. Mi avete fatto due palle così, ma mi avete mandato dei messaggi pazzeschi. Basta Sarri Mancini, basta Sarri Mancini, la grande telenovela italiana. Io di solito me ne fotto di quello che dicono gli ascoltatori, almeno quelli che scrivono, eh. Ovviamente tengo conto di tutte le sensibilità nel produrre questo caravanserraglio quotidiano. Però, ragazzi, e non è inutile negare, è stata una grandissima storia, arricchita oggi, caro Parenzo, da una chicca memorabile. Quale sarebbe? La Democrazia Cristiana, il segretario della Nuova Democrazia Cristiana. Nuova Democrazia, ma che cazzo ne ma so. Esiste la Nuova Democrazia Cristiana? Il segretario della Nuova Democrazia Cristiana, della Democrazia Cristiana, nuovo partito, non so come cazzo si chiama, un tale un signore ha querelato Sarri. Ha querelato Sarri perché Sarri ha offeso la DC in uno dei passaggi famosi della conferenza stampa dopo la partita. Ha detto sostanzialmente, cosa ha detto? Beh, se l'avessi voluto offendere non avrei detto Froce, non avrei detto Finocchio, avrei detto Democristiano. Apriti cielo, i DC incazzati. Ieri ti ricordi Danna da noi cosa ha detto? Io Danna non capisce un cazzo, ignorante, vaffanculo, la democrazia si deve sciacquare la bocca invece di parlare di DC. Beh, oggi c'è questa perla straordinaria. Intanto abbiamo il traffico che dobbiamo fare, dobbiamo passare dalla DC, capito? Dalla DC, da Sarri, da Sturzo, da non so da cosa, al traffico. Vabbè. Traffico, veo chilar. La Zanzara. Come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da Oclocrat. Apriamo, Parenzo? Apriamo le danze? Apriamo le danze o no? Apriamo le danze, certo. Giorgio Livorno, vai. Le danze. Apriamo le danze, no, apriamo le la pancia, apriamo. Le viscere. Giorgio, vai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo, in merito al discorso del ristorante che non voleva i bambini. Sì. Io finché ero infelicemente sposato, una volta guardavo... Perché infelicemente? Vabbè, se sarà separato. Sono separato, però finché ero infelicemente sposato ero piuttosto benestante. E una volta cercavo d'estate i soliti 7 giorni di vacanza e avevo trovato un bellissimo posto in Sardegna. Dove, dopo che dicevano jacuzzi, ristorante chef, tutto quel che ti pare a te, c'è scritto non si accettano bambini sotto i 14 anni. Sì. Ed è ovvio, perché se uno spende 2.000 euro alla settimana per 7 notti in Sardegna, non vuole il bambino che urla accanto. Sì. Tra l'altro, assolutamente. Giorgio, scusi. Sono andato anch'io in alcuni di questi posti. Spesso ci sono alcune aree, ad esempio alcune zone, in cui sono le piscine riservate agli adulti senza bambini. Ma non è che nelle strutture alberghiere non ti fanno entrare. Ci sono alcune spa in cui ti dicono ci sono degli orari riservati ai bambini e altri orari in cui riservati agli adulti. Questo invece, è corretto. Ma non voglio... dire qui non entrano. No, sicuramente è correttissimo dire qui non entrano. Correttissimo. Le voglio dire. Che esistono dei villaggi esclusivi dove i bambini non li vogliono. E tra l'altro dicevo una sola cosa, anche al teatro, non dico alla Scala, ma al teatro i bambini non possono entrare. Ma chi è che infatti porta un bambino di 7 anni? Ma chi è che fa ti porta un bambino? Ho capito, ma vabbè, non ho capito, Giorgio, tu sei padre di due bambini, giusto? Certamente. Trovi corretto che un ristorante una beh, adori, grazie, sì. Che fai, li odi, cioè è normale che li adori. No, dovrebbe cazzo essere l'intelligenza dei genitori in certi posti di non portare i bambini finché rompono cioè, coglioni. Sei d'accordo, con quel sei d'accordo con quel ristoratore d'accordo, che ha detto qui i bambini non entrano perché in sostanza rompono i coglioni, sì, che li entrano? Cioè, c'è una sala riservata. È molto più grave che facciano entrare i cani nei ristoranti, è molto più grave che non fare entrare i bambini. Comunque, cane che... Sì, no, ho capito benissimo. Ciao, Giorgio. Una sala riservata per i bambini. Allora, la cosa incredibile che è successa, che apprendo oggi dalla stampa, è un'altra. Io so che molti che ci stanno ascoltando sono d'accordo. Hanno tenuto un uomo in una teca dei serpenti per un'ora, per farsi ridare 20.000 euro rubati. Capito? Non ho capito. Cioè, tre lavoratori del circo hanno messo in opera una specie di giustizia fai da te. Sì. Nei confronti di un sinti, cioè di un rom. Cioè hanno preso un rom sinti, l'hanno sbattuto in una gabbia di serpenti. Esatto, per farsi ridare i 20.000 euro che aveva rubato nel circo, capito? Cioè, alcuni rom hanno rubato 20.000 euro, forse qualcosa di più, in un circo. Questi qua l'hanno pizzicato, sto rom, l'hanno messo dentro la gabbia dei serpenti. Anziché denunciare, l'hanno preso e buttato in una gabbia di serpenti. Una gabbia di serpenti. Beh, una cosa pazzesca. No, non c'è da ridere, è drammatico. Cioè, questi sanno che se questi qua poi vanno alla polizia, vengono arrestati, eccetera, ma già magari si sono liberati del denaro. Per cui uno gli hanno dato un po' di botte, l'altro hanno preso e l'hanno messo nella gabbia dei serpenti. I serpenti, stupendo, i serpenti. Comandante? Sì. Oh, io la voglio abbracciare fortissimo, sono Cruciani, ciao. Cruciani, buonasera. Comandante grandissimo, io sono dalla parte sua. Ti voglio abbracciare, comandante. Sei un genio. Perché oltre a essere un gran paraculo che ti sei fatto pubblicità con questa storia, hai tutto il mio appoggio, hai tutto il mio sostegno nei confronti di Parenzo e di questi altri personaggi, personaggetti, direi. Quale comandante? Piccoli. Il comandante è il titolare del ristorante, meraviglioso. Lo vogliamo dire ristorante, così facciamo pubblicità. Diciamolo ristorante, comandante, come si chiama? Io mi chiamo Marco. Marco, ma il ristorante come si chiama? La Fraschetta? La Fraschetta del Pesce. La Fraschetta del Pesce. Tutti quanti andranno alla Fraschetta. Devono andare alla Fraschetta del Pesce, coi almeno bambini, una volta. Coi bambini. No, senza coi bambini. Coi bambini. Via Pittaluga, Casa Albertone, via Roma. Giovanni Pittaluga. Diciamolo. Casa Albertone, Roma. Allora, amico mio, bambini. Quante telefonate di insulti e quante di appoggio hai ricevuto fino adesso, comandante? Tante di insulti, diciamo nessuna. A me telefonate di insulti, almeno una ieri sera un milanese mi ha detto testone, ne detto cretino proprio che sei. Qualcuno che ha i figli e ti ha detto... Vabbè, ma è normale comunque, che se no una spaccatura ci deve stare per forza, è normale, non è che tutti vanno detto bravo, è normale, no? Si è aperto un dibattito e... È normale. Io dico è una cosa, ma che cosa è successo di così grave da impedire l'ingresso dei bambini? C'è un episodio, io non ho mai impedito l'ingresso dei bambini. Beh sì, hai messo il cartello, hai messo il cartello. No, io ho messo il cartello, non è gradita la presenza dei bambini. È uguale però praticamente. No, non è gradita perché i bambini se hanno i genitori che non li sanno educare si fanno male e mi creano problemi. Sì. I genitori devono venire al ristorante o andare dove vogliono loro con i bambini vicino come quando ero piccolo io, vicini seduti e li devono educare a non correre per il ristorante. Vabbè. Però il cartello ma è abbastanza chiaro. Ma è un grande classico quello del bambino che ogni tanto corre per il ristorante, dai, su. Sì, è classico, ma io è come far scorrere i salmoni al contrario nel fiume, dai, normale. Certo, però io siccome non faccio la babysitter ma faccio il ristoratore, bravo. Non posso correre appresso ai bambini che i genitori rilasciano lo sbando, qui viene gente che la sera paga la tata per venirsi a rilassare . E non gli vado a sentire i bambini che strillano delle altre coppie che non gli dicono niente. E certo, a causa di episodi spiacevoli dovuti alla mancanza di educazione. Aspetta, leggo il cartello meraviglioso che hai messo. Certo. In questo locale non è gradita la presenza di bambini minori di anni 5, nonché l'ingresso di passeggini e o seggiolini per motivi di spazio. Questo è stupendo. Certi della vostra comprensione, si ringrazia anticipatamente la gentilissima clientela, il comandante che poi si restituisce. Che numero è la vostra frequenza? Che cazzo ne so, a Roma? 107.6 credo. 107.6. No, 107.9. 107.9. 107.9. Allora, io voglio capire una cosa, comandante. Pare che la legge. Perché si chiama un titolo. Ma si è scritto lui. Si è allora a me chiami il direttorissimo. Scusa, che cazzo vuol dire comandante? Che cazzo perché vuol dire? È scritto comandante in questo cartello? Ma il comandante, perché siccome io dentro non ho fatto i cammerieri, l'ho vestiti tutti da marinaio. E quindi i marinai c'hanno il comandante. Ecco. Com'è che so tutti? Perché il fraschetta del basta pesce, che tu non sia schettino, amico mio. Lo schettino dei ristoranti. Non basta che non porti alla distruzione il ristorante facendo lo schettino, dice Parenzo. Ma mi auguro di no. Toccate un po' nelle parti. Già fatto nelle parti intime. Io voglio dire una cosa, caro comandante. Sì, hai tutto il mio appoggio. Parenzo dice che praticamente tu non lo puoi fare per la legge. Cioè, la legge in teoria dovrebbe obbligarti a far entrare tutti dentro sto ristorante. Io faccio il ristoratore e per quanto riguarda questo se ne è occupato il mio avvocato. Se devo chiudere, già mi hanno fatto chiudere. Dunque, tu lo puoi fare. Lo puoi fare. Io. Sei perso il mio avvocato, io sto nei limiti nella norma della legge, io non ho detto è vietato. Lei dovrebbe fare. Scusami, Cruciani. Sì, dimmi. Se uno ha un bambino di 2-3 anni, lo porta al teatro dell'opera o alla Scala, dopo 2 minuti ti cacciano via. Ma hai ragione, hai ragione. Certo, il teatro dell'opera con il ristorante. Ma no, Parenzo, attaccalo con quello che hai detto ieri, che non lo può fare perché la Costituzione dice che poi devi far entrare tutti nel pubblico. Devi avere coraggio, abbi il coraggio di attaccare. È un esercizio pubblico, posso entrare con chi mi pare, basta pagare il conto, però è un esercizio pubblico. Sì. Ma ti pare che uno non porti i bambini al ristorante? Faccia una sala riservata a bambini con genitori, magari, come c'è quella per i fumatori. Più grande per fare una sala più grande, quello c'ha il ristorante piccolo, ma che vuoi? Siccome è un esercizio pubblico, si chiama esercizio pubblico. Sì. Essendo un esercizio pubblico, non è che lei può dire no, entrano no, solo quelli che non hanno gli occhiali. Invece lo può dire, perché è una cosa. Invece lo può fare perché lo andate a quel paese tutte e due, che, ma chi se ne frega, ma che è quel paese tutte e andate due andate a quel paese tutte e due, uno e due, ma il che c'è anche il comandante, no, ma il comandante ha fatto benissimo, oltre che aver fatto una grande operazione di marketing, ecco, questo se mai gli va riconosciuto, questo appunto gli questo ha fatto una grande operazione di marketing, che poi non è il solo, in molti comunque alberghi. Datemi immediatamente il numero di questo locale che andremo a fare una visitina con i Katanga, ma come a vedere che, certamente negli anni 60 gente così. Vabbè, comandante, io spero che lei non abbia problemi con la finanza, con la polizia, con nessuno. Per questa cosa no. Mi sto scongiurando pure là. Però, vabbè. Toccate bene pure là. Tocco bene pure là. Ciao, a presto. Ciao, a presto. Ciao. Ragazzi, ci sentiamo dopo. 18:30. Intanto Mancini ha chiesto scusa a Sarri. No, ha chiesto scusa. Ha accettato le scuse di Sarri in un'intervista alle Iene. Anche l'Inter ha detto che accetta le scuse di Sarri. Andatevene a fanculo tutte e due allora. Prima avete fatto fa due palle così in questi giorni e poi tutte scuse. Vaffanculo, va. È una cosa indegna la sua trasmissione. Digital Radio Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale. È vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Nolente o dolente, chi sale sul mio autobus ascolta la Zanzara. Io sono un untore di zanzara. Guarda che c'è gente strana in giro, c'è gente strana in giro. Allora ragazzi, io non volevo tornare su questa vicenda, caro Parenzo, purtroppo non volevo tornarci perché mi ero anche rotto i coglioni per 2 giorni. Infatti un momento, mi che giunge c'è? Alla voce che c'è una trasmissione che si chiamerebbe Il Falco e il Gabbiano. Eh sì, condotta da Sergio Ruggeri. Totalmente inutile, abbiamo deciso di cambiare allora il titolo di questa trasmissione che diventerà da domani Falce e Martello anziché no, Il Falco e il Gabbiano. Il compagno Ruggeri, che è stato già comandante della brigata Garibaldi, ma non è vero, dovrà in ogni trasmissione descrivere come si fa un cosiddetto attacco sincopato. In ogni luogo della fabbrica bisogna occupare nello stesso momento un luogo strategico. Quello fa il cantante, deve cantarle ai padroni, l'unica cosa che deve fare è cantarle a squinzi. E allora dovrà essere occupata la fabbrica simultaneamente. Ecco un esempio: occupare la sala macchine, occupare la direzione generale, bloccare tutti gli accessi alla fabbrica. In questo modo mettiamo in scacco il padrone. Ruggeri fa un'altra cosa, un altro mestiere. Si chiama Falce e Martello. Falco e il Gabbiano non esiste più. Vabbè ragazzi, Parenzo, ci sei? Pronto? Eccoci qua. Ma guarda che è una cosa pazzesca. Che vuoi fare? Ma non lo so, ma è una sabotata. Ha un codice segreto, sai, è roba sovietica, roba è così. C'è un codice segreto per entrare. Ma è l'ultimo giorno. È l'ultimo giorno. Meno male, perché è una roba fastidiosa. Allora, io dico una cosa: ci hanno fracassati i coglioni per 3 giorni. Perché ci siamo anche divertiti, non voglio dire questo. Sarri, Mancini, i giornali, le televisioni, le dichiarazioni e l'arcigay che oggi vuole pagare la multa. A Sarri, l'arcigay napoletano vuole pagare la multa a Sarri 20.000 euro, e vabbè, ognuno paga quello che vuole, eccetera eccetera, e poi alla fine tutto questo, Mancini che va a dire che è una questione fondamentale, questo che mi fa incazzare, perché io ho appoggiato Mancini in questa battaglia contro l'uso dispregiativo della parola frocio e finocchio, l'ho anche appoggiato, per carità, non è che lo reputo una cosa gravissima, però l'ho appoggiato e ho detto che Sarri ha sbagliato. E adesso cosa fa? Dopo aver detto urbi e torbi che è una questione di principio, che è una questione, addirittura dopo aver detto che i ragazzi si suicidano per colpa di quelle parole. Questo è vero. La cosa falsa, cosa la falsa. Cronaca, ma lasciamo perdere. Ce lo racconta. Vabbè, ma lasciamo perdere adesso l'oggetto della discussione. Dopo che tu hai posto una questione di principio dicendo che quello là in un altro paese non avrebbe più allenato e che doveva essere cacciato dai campi di pallone, come sostieni tu, tra l'altro. Sì. Cosa fa alla fine Mancini? Accetta le scuse. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Cioè, ma allora ci pigliate per il culo? Allora dobbiamo credere che quella battaglia di principio non esiste? Io capisco la diplomazia, capisco che sei anche un po' rimasto da solo, capisco che avevi fatto delle dichiarazioni precedenti, capisco che nel calcio alla fine c'è la grande ammuina, però potevi evitare allora di farci una testa così con le dichiarazioni di principio, con la battaglia per i diritti e chi più ne ha più ne metta, perché altrimenti dobbiamo credere che era tutta una puttanata, che era tutta una muina, che era tutta una cosa di facciata e che volevi semplicemente metterlo in quel posto, tanto siamo nel tema, metterlo in quel posto a una squadra avversaria. Ma perché io vorrei fare riascoltare Mancini quando ha detto dell'Inghilterra eccetera eccetera. Sentiamo. Vabbè, spogliatoio, sono andato a cercarlo. Lui ha detto: ah, ti chiedo scusa, non mi devi chiedere scusa, ti devi vergognare. Perché uno che pronuncia quelle parole in Inghilterra non avrebbe più neanche messo in campo in un campo di allenamento. Quindi io non parlo della partita. Cioè, ragazzi, dopo 3 giorni accetta le scuse? Dopo 3 giorni accetti le scuse, ma è una buffonata. Non è che si può mettere in croce Mancini perché ha chiuso una polemica vigliacca, una polemica. È una buffonata. Finisce con la solita cosa, cioè all'italiana una buffonata. Tra l'altro, Mancini l'aveva detto: finirà l'italiana, gli daranno 2 giornate. Cioè, era stato durissimo. Dopodiché, adesso che cosa c'è? La pace. Ma quale pace? Hai detto che è una questione di principio. Questa non cosa c'è pace, mi fanno andare in bestia. Ricordo che la figura di Palta l'ha fatta l'allenatore del Napoli. Sì, ma lascia Napoli, perdere. Non adesso Mancini. Siamo su un altro piano. Siamo nel piano in cui bisogna sempre ricordare la palla. Cala tu le braghe. Devi tenere gli occhi sulla palla. Cala gli le occhi braghe. Sulla palla sono questi. Cioè, chi ha fatto vabbè, una figura basta, di Palta e deve torniamo. Chiedere scusa è quell'altro. Ah. Luca da Modena, vai 800 24 00 24. Luca da Modena, addirittura la DC, la nuova DC fa causa a Sarri e questi fanno male, ragazzi, non ne posso più. Questo io, siamo al delirio. Luca da Modena, dai Luca. Ciao Giuseppe, ciao David, dai. Sono Luca dell'Etame, ma stasera non parlo di banche. Condivido in pieno quello che hai appena detto sulla vicenda Sarri-Mancini. Dai, è una buffonata, dai, su. Sì, concordo. Ma volevo parlare del ristoratore che prima parlava del discorso dell'accesso ai bambini, eccetera. Sì. Io quando sento queste cose penso che a breve l'umanità si estinguerà, perché ritengo che questa mentalità qua sia veramente deleteria, però... Bravo. Dico, non ho capito, pensato, che cos'è che si estingue? No, dico, penso che noi come società ci estingueremo nell'arco di pochi. E perché ci dovremmo estinguere, scusa amico mio? No, il mio punto di vista è che tra, insomma, la famiglia che è sempre più messa in discussione, la poca natalità, tutti questi attacchi, no, queste... ma scusami caro amico, secondo te lui noi dice, ci se vengono messi, no, paradosso, cioè, ovviamente, se ci sono le coppie gay, alla fine i matrimoni gay noi ci estingueremo? No, non volevo essere così. Beh, esplicito. Così pensi però. Diciamo che io sono per la famiglia tradizionale, sono lieto ma di cosa, averla avuta. Ma cosa c'entra l'estinzione dell'umanità, amico mio? Perché? Perché i gay dovrebbero far estinguere l'umanità? Ma non potremmo mai diventare tutti gay. Possiamo, no. Possiamo essere un po' gay, quello sì, ma non diventare tutti gay. Anche chi è, paradossalmente, guarda, ti dico una cosa. Io conosco un sacco di omosessuali, un sacco di froci, i quali hanno messo al mondo dei bambini. Poi magari si sono accorti di essere froci, sono accorti di... E beh sì, per cui anche loro no, si riproducono, se vogliamo, perché comunque no, non è che sono impediti da quel punto di vista. Anche gli omosessuali hanno fatto, fanno e hanno fatto dei figli. Per cui non è vero che non è vero che se uno è omosessuale porta all'estinzione l'umanità, come tu pensi, Luca, perché tu lo pensi. No, mi stai mettendo in bocca delle parole che non sono proprio quelle che intendevo io. Beh, ma diciamo che vedo sempre meno considerazioni per i bambini. Questo sì. Ma quando mai? Ma siamo una società bambino-centrica. Voglio avvertire che la consorte, compagna del signor Parenzo, mi dicono abbia applaudito al ristoratore. Il ristoratore che non vuole i bambini, ma l'hanno detto, ti giuro, me l'hanno comunicato, diglielo anche a lei. La signora Tania Zevi, tra la mia famiglia, è d'accordo col ristoratore che non vuole. Chiamala al telefono, ti posso, vuole... do l'autorizzazione. Dopo, se vuoi, chiamala. 8, facciamo 8. Un grande scontro familiare. Se dopo vuoi. Le 8, è d'accordo con un il momento, momento. Quello che avviene dentro quella casa deve rimanere all'interno di quella casa. Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? Mi hanno telefonato dicendo, ma lo sai che la signora Zevi, compagna di Parenzo, è d'accordo con il ristoratore romano che vuole impedire l'ingresso ai bambini? Chiamala se vuoi. Facciamo un grande scontro. Luca, cosa vuoi da noi? Dopo. Io spero che il ristoratore stempi la sua posizione e dica che magari alcune sere, tipo venerdì, sabato, domenica, i bambini no. Le altre sere che sia un pochino più morbido. Vabbè, amico mio, io invece lo elogio e dico viva la fraschetta del mare, del pesce, come diavolo si chiama, di Casa Albertone, Roma. Roberto, provincia di Ascoli. Chiamala tra di ciao, me. Vai, ma dopo, dai, Roberto, provincia ciao. Di Ascoli. Anto, ormai chiamala ha sentito, all'improvviso, no? Ma chi ha sentito? Dai, Roberto. Chiamala tradimento. Ciao. Ciao, sono Lorenzo, guarda, sono di Ascoli, ma sono in viaggio, mi sono fermato all'autogrill perché mi avete fatto incazzare con questa storia del ristorante, perché no, non voi, ma chiaramente quando sento queste cose mi sembra una forma di razzismo, è come se scrivessimo sui ristoranti vietato l'accesso ai negri oppure agli ebrei. Ma non è vero, questo no, però è una follia. Per entrare nel discorso, bravo, però sì, dico, hai una ragione, perché la responsabilità è personale. Io esatto. Una vita che rompo le balle ai miei due figli, gli faccio due palle tutti i giorni, adesso appena arrivo a casa gli faccio un cazziatone, se toccano il pane, insomma, non so, le mangiano senza forchetta, eccetera, e quando vado in giro... Ma come si fa a mangiare senza forchetta, detto. Scusa amico mio? Quindi, che no, vuol dire mangiare senza forchetta, che sono delle bestie? No, l'educazione, ma dice, se magari, dai, il pollo alla mia casa mia lo mangiano col coltello, va bene? Ma il pollo si mangia con le mani, il pollo si mangia con le mani, si addenta con le mani, amico mio. Quando vado al ristorante, amico mio, non voglio che si comporti, quindi voglio avere la libertà e non voglio essere giudicato per... Ma se uno non vuole, se uno non vuole che nel proprio allora, ristorante allora, entrino bambini al di sotto di 5 anni, è un anni. Locale pubblico. Ascolta, ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Non è un locale ascolta, pubblico, tra l'altro. No. Non è un esercizio pubblico. È un esercizio che ha una licenza, non pubblico. Cosa farebbe il ristoratore se un adulto improvvisamente si togliesse i pantaloni e cominciasse a saltare sul tavolo tipo Totò? Lo caccerebbe via, chiamerebbe la polizia. Ma che vuol dire? Ma non è un esempio che c'entra qualcosa, dai. Se mio figlio si comporta bene ha diritto a star lì, se si comporta male mi mette alla porta a me e alla mia famiglia, ma non mi devi giudicare sulla base quello di invece per non sapere né leggere né scrivere quello invece per non sapere né leggere né scrivere dice io qua dentro i bambini e i passeggini e annessi passeggini e altro sotto i 5 anni non ce li voglio, amico mio, così non si evitano discussioni, se vuoi venire qui vieni in coppia da solo oppure con mi sono incazzato con il ristoratore prima del divieto del fumo, vietato fumare la pipa c'era scritto, ma come ti permetti di fare una tuna di discriminazione tra fumatori di sigarette no, di pipa. Perché la pipa dà, perché la pipa dà più, emana un odore, secondo alcuni, ma più sgradevole. Questa è una cazzata, però, perché, per esempio, io, a me piace più l'odore, tanto non si può fare del sigaro, ti piace? Piace più l'odore del sigaro, l'odore, ma è soggettivo questo, permetterai. Vabbè, ragazzi, che... ci siamo dilungati troppo. Pubblicità, dai. Ma che meraviglia, io sono pazzo di voi due. Se fossi nata donna non saprei da chi farmi corteggiare, a chi avrei corteggiato. La Zanzara. Ormai è tutto degradato ormai. Ho sentito dire che lui ha preso due giornate. Io per un errore geografico e poi come danno il gas. Io ho dichiarato uno filippino, no, io leggo due giornali che dicono che lui ha detto frocio a cosa. Dice non è frocio, perciò non è colpevole. Io ho detto filippino, quello non è filippino, so colpevole. Ma stava scherzi a parte qui. Ferrero, 3 mesi, ne ho scontato uno tutto. 30.000 euro alla società, 10.000 euro a me, 20.000. Ma questo due giornate finito? Come mai? Perché si chiama Sarri? Perché sono primi in classifica? O per caso è il Napoli, Aurelio, che cos'è? Qualcuno me lo può spiegare? Non siamo tutti figli di Dio? O siamo tutti figli di una buona donna? Com'è la storia? Cruciani, ogni volta che sento parlare Adinolfi mi spunta un foruncolo sul culo. Più puttane, meno Adinolfi, sempre! Cruciani, la prossima volta che chiami Adinolfi, prima fumati un cannone con quell'erba lì che ti stai producendo, poi dopo chiama Adinolfi, ok? Ciao, caro, ciao. Il problema di Adinolfi è lo stesso di Ferrara. L'eccesso di adipe rallenta le connessioni tra i neuroni, ammesso e non concesso che ne abbiano. Io lavoro nella ristorazione e vi posso garantire che i bambini che deambulano senza che i genitori li controllino, correndo, rompono i coglioni a chi lavora e agli altri clienti. Volete fare figli? Teneteveli a casa! Imam di Colonia, vaffanculo! Oh, finalmente, ma ci sono diversi messaggi, ma non ve li posso mandare tutti in serie, forse lo farò, di ascoltatori che mandano a fare in culo l'imam di Colonia, che dovrebbe essere cacciato dalla Germania, diciamo sì, la verità. Sì, non c'è dubbio, hai ragione, sono d'accordo. Cacciato dalla Germania per le cose vergognose che ha detto sui fatti di Colonia, che la colpa è delle donne che erano profumate, anche vestite in maniera succinta, in maniera, secondo lui, poco rispettosa, non so, nei confronti di chi, insomma, con gonne, eccetera, eccetera. Vai a fare in culo, caro imam di Colonia. E devo dire la verità, mi sono anche sfogato forse troppo prima su Sarri e Mancini, perché non è possibile, ragazzi, veramente non è possibile finire a Taraluccio e Bino dopo che sono state poste questioni di principio molto importanti che riguardano le parole che si possono dire e quelle che non si possono dire, eccetera eccetera, dai. Fabio Udine, anzi dove erano? Daniele da Padova prima, vai. Daniele Padova. Ciao, dimmi, Cruciani, dimmi, ciao Parenzo, dimmi. Io volevo dire una cosa. Prima tu hai detto una notizia su quei soldi che vengono dati ai partiti morti e non ho capito chi è che dava questi soldi a questi partiti. La Camera ha deciso, lo Stato, la Camera, hanno deciso che quasi mezzo milione di euro andranno a partiti ormai defunti, a partiti che non esistono più. Io avevo chiamato per il discorso dei bambini nel ristorante, perché c'è sta gente che si incazza per sta cosa. Ma che c'entra con i partiti, scusa? No, voglio dire che dovrebbe far cercare di incaponirsi su questo discorso. quando tu hai passato quella notizia, io per poco perdevo le mani dal volante quando hai detto questa cosa, ma per un discorso di tasse e tutto il resto, perché così io sono un dipendente, eccetera. Volevo solo dire una cosa su questa cosa dei bambini, perché tutti stanno portando esempi vari, io ti porto un esempio concreto. Io ho un bambino di pochi mesi e quindi la penso in maniera positiva rispetto a questa cosa, perché 2 anni fa io mi sono sposato e in luna di miele mi hanno proposto un resort che si chiama Atmosphere Resort del Vera Club, che è... Beh, adesso che c'entra? No, aspetta, che vieta l'ingresso ai minori di 18 anni. Vieta la partecipazione a questo resort ai minori di 18 anni. Quindi io sono andato là con mia moglie e mi sono fatto la luna di miele tranquillo, senza... Naturalmente, quello che dico è che chiunque offre un servizio del genere può decidere di offrire un servizio a un target di persone che decide lui, non è per forza una cosa razzista, è semplicemente... Chi ha mai detto razzista? No, è chiaro che se uno va alle terme, i bambini alle terme non ci possono andare, ad esempio, in alcuni posti perché gli fa anche male. Ma questo è scontato, ragazzi. Stiamo parlando dei ristoranti, dei locali e dei ristoranti. No, questo qui sta parlando di una cosa simile, però, di un esercizio pubblico. No, sta dicendo che un resort, che non è che vale meno del ristorante, ha deciso che lì i bambini non erano ammessi, giusto, Daniele? È proprio così. Che differenza c'è tra un resort e un ristorante? Non c'è nessuna differenza. Ma io sono d'accordo che il ristoratore possa dire ha fatto benissimo, se... i bambini perché offre, ma anche perché perde clientela in questo modo. Perde clientela. Teoricamente perde clientela. Teoricamente. Fabio Udine, vai. Fabio. Ciao, dimmi. Senti, secondo me voi avete delle idee, mi rendo conto che vado troppo fuori tema rispetto a... No, ma non stasera, c'è tema, qui in questa trasmissione, cazzo, ma tu da quanto tempo l'ascolti, Fabio, scusa? Ah, sì, da un po', Da un po', benissimo, qui non ci sono temi, non esisto. Senti, a me la parola temi mi fa orrore, appena allora sento io... il tema, ma che è il io tema? Io volevo fare una proposta, ma prima mia di fare figlia fa proposta... il tema a scuola... Prima di fare questa proposta volevo dire che secondo me voi avete un'idea sbagliata sui vegani. Io non sono vegano, però vi posso dire che non sono tutti integralisti, estremisti. No, però ti segnalo una cosa che è uscita oggi, credo sul quotidiano La Repubblica. Scusa, parlo come Capanna. Vedi che è più forte. Il quotidiano La Repubblica. Peraltro c'è la definizione qui di esercizio pubblico che poi leggeremo nel corso di questa odiosa diretta. Vabbè, allora... La definizione di esercizio pubblico. No, per pubblico non esercizio niente. Si intende, ai sensi della legge italiana, un locale aperto al pubblico in cui si svolge un'attività di impresa avente come oggetto la prestazione di servizi al pubblico. Vabbè, Fabio. Tra i requisiti, oddio, fammi parlare 40 secondi, tra i requisiti c'è proprio questo, cioè il fatto che, essendo, dice la legge, un esercizio pubblico, il carattere di pubblicità di un esercizio, intesa come condizione di fruibilità del locale, non è dato dall'apparenza esteriore, ma dalla possibilità concreta per chiunque di accedervi liberamente e di poter fruire dei servizi. Dunque è un fascista. Quindi quando là vi dicono questa è la legge, che non potete entrare, andate, chiamate i Katanga e spaccate tutto. No, come spaccate tutto? E spaccate tutto. Lo insegna del resto anche la trasmissione Il Falco e il Gabbiano, ribattezzata Falce e Martello. Lo hanno insegnato lì. Comandante Ruggeri, comandante di Brigata Partigiana. Ma non è vero, non è mai comandante stato. Comandante Ruggeri. Allora, Fabio, ti dicevo, a proposito dei vegani, ti dicevo una cosa. Sì. C'è un neuropsichiatra a Bologna che, in un'intervista a Repubblica, dice siccome il comune di Bologna in maniera incredibile ha autorizzato nelle mense degli studenti, Parenzo sarà d'accordo, nelle mense degli studenti la dieta vegana, il menù vegano a scuola, ma giusto un cazzo, giusto una minchia, sono d'accordo, ma che è giusto, io voglio il menù kosher, voglio il menù, ma che ne so, ma dico un'altra cosa, ma se, scusami un attimo, se io a un certo punto dico voglio mangiare solamente il mais, ma che c'entra, c'è la verdura, infatti la dieta vegana te la fai a casa, a scuola non rompi i coglioni. Allora, questo signore, questo psicologo, neuropsichiatra, quello che è, un tale Emilio Franzoni, dice: beh, si rischia anche l'anoressia. Molti ragazzi che hanno problemi hanno cominciato con questo tipo di dieta. E comunque, io lo sconsiglierei alle famiglie, ma qui entriamo nella sfera privata. Un servizio pubblico non dovrebbe consentirlo. Non dovrebbe consentire. Comunque è una scelta che va fatta quando si è in grado di scegliere. E su questo sono d'accordo. Oppure, se sei genitore e vuoi far fare la dieta vegana a tuo figlio, gliela fai fare. Ma non è che puoi pretendere che la scuola ti faccia la dieta vegana. Dieta vegana a casa. Oppure gli fai la sghiscetta a casa vegana o quello che è, gliela dai invece di rompere le balle al servizio pubblico e alla scuola. O no, Fabio? Ma io penso che ci arriveremo col tempo. Vabbè, ma che volevi tu? Volevi parlare di questo? Molti pregiudizi. No, io volevo fare questa proposta. Voglio togliere i soldi ai partiti defunti. Sì. E stanziarli a favore delle estetiste. Cioè, in che senso? Scusa, spiegami, non ho capito. Perché in modo che le donne abbiano dei contributi vincolati affinché facciano la depilazione integrale inguinale. Ma che sei matto sei? Cioè, tu vuoi rendere obbligatoria praticamente, oppure facilitare attraverso contributi pubblici la depilazione totale delle donne? Beh, questo secondo me creerebbe posti di lavoro, perché le estetiste lavorerebbero di più. Meno evasione fiscale, perché non si... Non ma si gialla, ma già lavorano le estetiste come le matte, una delle poche categorie che lavorano a mille. Ma vuoi mettere le conseguenze sociali di avere le donne integralmente depilate? Ma qual è la conseguenza? Per me sarebbe una cosa nefasta, amico mio. Io amo, come sai, airy pussy, come si dice, no? Così si dice in inglese, così lo dico in maniera un po' più soft rispetto a quello che può sembrare apparenza, o a qualche purista, o a qualche... o a qualche moralista di turno, dico Eripussi, come si dice? Beh, in questo modo si dice, hai fatto francese, no? No, però anche in inglese non so la definizione, perché sai, quando uno va a compuzzare i siti porno spuntano queste cose qua in inglese, come di quello solito. Di Renzi, nei siti porno spuntano tu queste cose. Tu hai imparato l'inglese con YouPorn, cioè tu sei il classico che ha imparato l'inglese guardando i film porno, dove, come tu sai, le battute sono abbastanza limitate, perché oltre a oh yeah, yes, no, like this, beh, però non da un po' c'è di tempo, nulla di più, no, capito? No. Cioè il tuo inglese è limitato a questo, dice, come va? Oh yeah, like this, please, more. Queste sono le uniche parole che ci sono notoriamente, è così. No, ti ho detto Harry Pussy, e dunque ti ho detto no, it's not enough, again, please. Ma mi sembra che conosci molto bene questo, molto bene questo vocabolario, però. Dunque, eh? Abbiamo fatto uno studio approfondito sull'utilizzo della pornografia negli anni 60. Ne parleremo nella trasmissione Tutti convocati, che sarebbero i compagni convocati all'assemblea di fabbrica. Ma non tra è l'altro vero. Di domani, turno infame alla Fiat, occuperemo la sala macchine alle ore 14, lo diciamo subito. Ma chi se ne frega? Vabbè, ciao. Angelo da Agrigento. Angelo? Dove cazzo è questo? Dai. Angelo? Pronto? Sì, dimmi. Sì, capisco che Agrigento è lontano, però per i telefoni è uguale. Dimmi. Ascoltami. Io, volevo intervenire per quanto riguarda il ristorante. È assolutamente ragione Parenzo. Ha letto la definizione di ristorante. Ma che ha ragione? Non c'entra una mazza l'esercizio pubblico, ragazzi. Su, dai. Esercizio pubblico è come se tu che hai un tabacchino da domani dici io non voglio più settantenni nel mio tabacchino perché ci mettono 10 secondi a scegliersi le sigarette. Stai dicendo una puttanata mega galattica. Le considerazioni personali ce le teniamo per noi, la legge è legge, le considerazioni personali. Ma la legge non è vero, non è vero. Obbliga questa persona ma è pieno di alberghi, assolutamente è non esiste. Pieno di alberghi commerciali pubblici devono vabbè, ragazzi, fare adesso non ci attacchiamo alla legge, perché questa non è una trasmissione che si occupa di queste cose qua. Dico semplicemente una cosa, la norma è, dice questo, tranne che noi vogliamo andare contro la norma, allora, ma non c'è nessuno, ma chi sei l'avvocato dei consumatori, chi sei? Il leguleio degli Agrigento, che sei? Ascolta, l'avvocato delle cause perse. L'avvocato, noi abbiamo consultato mille giuristi su questa cosa. Non è vero, ma comunque. Assolutamente. Questo non può vietare di entrare. Ma può vietare tranquillamente. Può vietare tranquillamente l'ingresso ai bambini sotto i 5 anni, ai passeggini. Assolutamente. Lo può fare tranquillamente. Posso sapere per un problema di ingombro, ma i bambini no. Ma come no? Allora, dottore fastidio, allora è un altro discorso. Vabbè, ciao, amico mio. Ciao. Si sta creando un grandissimo movimento, i bambini fuori dai ristoranti. C'è anche la partecipazione della compagna di Parenzo, che ha scritto un lunghissimo post di cui evidentemente non conoscevi il contenuto, caro Parenzo, Facebook, perché evidentemente c'è qualche problema tra di voi, ma io lo capisco, per carità, quando uno aspetta un figlio c'è qualche problema, c'è sempre qualche problema. Devi buttar non zizia. Solo tutt'altro. Comunicazione alto, ma comunicazione. Non è che leggo tutti i giorni i post ha che scritto fa, una che cosa fa lunghissima compagna. E devo dire da applausi, dice io sarò una mamma impopolare, chiamala, ma quel ristoratore una grande battaglia, no, in famiglia. Ma aspetta, adesso, quella ristoratore ha pienamente ragione e io credo di avere il sostegno, credo. Questo chi lo dice? È la tua fidanzata.

esempio, sì, no? Sì. Con la finalità. Una ragazza, perché devi essere così volgare stasera? Va dai. Bene. O una ragazza. Una ragazza signorina, con dai. La scusa, evidente. Scusa, sì, prego, tu hai parlato di figa. No, è una cosa che so. No, no, scusa, mi è sempre piaciuta. E forse mi piace anche adesso, ma non mi ricordo perché. Come non ti ricordi? Se vai su Google trovi la cosa. Ma no, quello che ti voglio dire, direttore, è questo. È aggiungere questo. Lui ha questa, che lei invita fuori a cena con indubbiamente la finalità, si annoia durante la cena perché non sa cosa dire, infatti la fa durare pochissimo, con l'unica finalità poi di portarla nello scannatoio nella casa di Milano. Sì, sì. Ma in pizzeria l'avrà portata. Ma neanche sia McDonald's, cioè, McDonald's. No, ma si fa offrire la cena poi. Cioè la cosa è grandiosa. È veramente bravo, è una tecnica che io Io sono come Vittorio Sgarbi, cioè non ho il portafoglio e non pago quasi mai a cena, cioè, non pago quasi mai a cena. E togli pure il quasi, che... questo te lo confermiamo tutti, cioè, quindi, tutti quelli che hanno avuto rapporti però, con te. La verità, no, torniamo ai bambini, però, che è l'argomento così, perché adesso le mie tasche, eccetera. No, bambini sono meravigliosi, li porti al ristorante e alle volte fanno anche la Vittorio, pupù. Cioè, non so straordinario di cacca. I bambini costano come gli adulti, ma una cosa più. Lui la non tragedia. Più. Vittorio non sopporta i bambini e anche i nipoti, non li sopporta. Diciamo la verità, no, ma no. Assolutamente. Ma non li sopporta. Sì, le accarezza. No, stasera sono a cena con mia figlia, col suo bambino che ha 9 anni, ma io non lo sopporto perché è un soldatino, si comporta come uno di 38 anni, non rompe i coglioni, e quindi è il nipotino mio preferito. Solo perché è anche l'unico che porto a cena. Perché non rompe i coglioni, diciamo. Non rompe i coglioni. Ma questo è fondamentale. No, mi dicevi prima della figa, dell'argomento figa che è interessante. Cioè, io sostengo da tempo che il futuro dell'umanità sia il poliamore. O comunque tutto. Il futuro di una parte consistente dell'umanità, cioè dire, perché sono d'accordo con te, guarda, mi appiattisco sul tuo concetto. Cioè tu sei anche tu teoricamente, naturalmente, un adepto del poliamore? Certo, io mi innamoro circa 12 volte al giorno. No, veramente stai dicendo? Sì, sì. Pensavo all'anno. Perché io vedo una bella donna e mi innamoro, poi mi passa anche in fretta, però ho questi innamoramenti, diciamo, queste piccole passioni. Sì. Sono come te. Per cui dici, relazionarsi con una sola nella vita è molto complicato. Dammi manforte su questo. No, è anche noioso, diciamo. No, quello è noiosissimo. Per esempio, Parenzo è uno fissato con la monogamia. No, fissato. Sì. Ma la pratica, ma senza. No, ma dai, sono Parenzo, scusa, lasciati dire. Non sai cosa ti perdi. Ha ragione Cruciani. Mettiti anche tu nella scia di Cruciani e ti troverai molto bene. No, ma in realtà lui dice, vabbè, è più complessa la cosa. Pubblicità, vabbè. E poi torniamo perché voglio parlare di un'altra cosa questa sera, prima della cena di Feltri col suo adorato nipotino di 9 anni. Non ce la faccio, io non vi sopporto, è un programma brutto. La Zanzara. Scusa, perché tu hai parlato di figa, che è una cosa che so. No, no, scusa, mi è sempre piaciuta e forse mi piace anche adesso, ma non mi ricordo perché. Allora, con noi Vittorio Feltri, che è in procinto di cenare con l'unico nipote che sopporta perché non rompe i coglioni, poi in sostanza, dice giustamente, come io da poco tempo sostengo con mia madre, che un genitore invece di lasciare e di pensare ai nipoti, ai figli, ci sono delle persone che sono concentrate solo su questo, devono sperperare tutto. Allora, cara mamma, so che sei in ascolto stasera perché sei in macchina, alle ore 8 ti dico, spendi tutti i soldi, buttali dalla finestra, magari no, spendili fino all'ultimo centesimo, non ci lasciare un cazzo, non ci lasciare nulla. No, ma sì, come, perché? Così è giusto. Uno no, si è, deve... giusto. È giusto così, io lo dico, è un consiglio che le do. Posso, scusami, dimmi, Giuseppe, dimmi. Posso aggiungere un concetto che secondo me è fondamentale? Aggiungiamo, sì, aggiungiamo. Cioè, i soli soldi che noi abbiamo, sì, e che sono nostri, sono quelli che spendiamo. Sì. Gli altri rimangono in banca, ce li fottono gli altri, o le banche stesse, o i figli, o i nipoti, le mogli che rompono i coglioni, come tu pensai. sì, si portano via anche tu. Allora, più spendi e più hai dei denari tuoi, perché tu puoi spendere solo i tuoi. È vero, io di solito sono sempre stato abbastanza refrattario a questa filosofia, però vorrei avvicinarmi a questa filosofia, cioè dello spendere il più possibile, perché altrimenti ti porti nella tomba tutto, vabbè. Allora, però sottoporti a delle fatiche, perché se spendere è una fatica... No, spendere, se psicologicamente uno poi dice, cavolo, che ho fatto, no, ho speso troppo. Nei piaceri, ecco, questo è bellissimo. E poi quando hai speso i tuoi soldi, sei contento, non li lasci alla banca, guarda che è meraviglioso. Sì, non lasciarli alla banca, questo è... Ai figli, no, infatti, si possono lasciare. No, ai figli è ancora peggio. Ai nipoti. Arriva alla banca Etruria. Sì, fallisce, eccetera, è un casino. Ma ai figli, ma che sei matto? Ai figli è una cosa tremenda, lasciare i soldi ai figli. Ma che ne sai come li spendono i figli poi? Magari li spendono... Come vogliono, ma è un regalo. Hanno dei mariti e delle mogli, e quindi tu devi anche praticamente finanziare i vizietti dei mariti e delle mogli, che è assurdo, sì, che poi sì, sono degli estranei, no? Per sostanzialmente noi. Sì. Allora, io dico una cosa, a proposito di soldi, il tuo amato Fabio Fazio, Vittorio, ha preso, non so quanti soldi, ma credo tantissimi, forse 1 milione, forse 2 milioni di euro, non lo sappiamo, dalla TIM per uno spot, e si è cancellato dall'ordine dei giornalisti. Ha fatto benissimo, perché è un ordine inutile, sì, un ordine che non serve a niente, anzi, e non è solo un ente inutile, ma anche dannoso, come noi sì, sappiamo. Sì, vabbè, quindi cioè, Fazio ha fatto bene. Il problema è che la sua collega, la D'Urso, sì, quella che conduce i programmi su Canale 5, Domenica Live, anche domani, sì, domenica andrò dalla signora D'Urso. Sì, sì. Ecco, bravo. E lei viene vessata continuamente dal presidente dell'ordine dei giornalisti, sì, che è un certo Jacopino. Jacopino, sì, Jacopino. È popolarissimo, ma insomma, insomma, si chiama Jacopino, non è colpa nostra. No, beh, questo no, zio Jacopino. E questo ce l'ha a morte con la D'Urso, perché essendosi cancellata, sì, dall'ordine dei giornalisti, continua a fare delle interviste in televisione. Allora noi ci aspettiamo. Si incazza. Sì. Adesso vogliamo vedere se si incazza anche con Fazio, che pur essendosi cancellato dall'ordine continuerà a fare il suo programma, che non mi ricordo come si chiama. Che tempo che fa? Che tempo fa? Dove fa soltanto delle interviste. Quindi se Jacopino se l'è presa con la D'Urso, ci aspettiamo che altrettanto egli faccia con... Esatto. Non che non ci auguriamo che Fazio non faccia interviste, per carità. Ci auguriamo che aboliscano questa norma idiota per cui se uno fa pubblicità non può fare il giornalista. Tra l'altro Feltri credo che abbia fatto delle pubblicità in passato di alcuni, sì, come ha fatto sì, parecchie, ma guarda, non le ha mai presi, ma le ha donati tutti, però, che mi risulta. Boggi, io mi ricordo una pubblicità straordinaria. Tutti, perché altrimenti Lerner Feltri buttato fuori dall'ordine. Capisci quanto? Ma li hanno regalati questi signori, cioè, hai dovuto regalare dei soldi, una cosa che per te è una cosa, sì, pazzesca. In beneficenza li hai dati. Un dolore, mi ha provocato un dolore, un'afflizione che tu non puoi neanche immaginare. Ho dovuto guadagnare dei denari e regalarli in beneficenza per evitare di essere buttato fuori dall'ordine, da qualcosa mi avrebbe impedito di svolgere la mia professione, che nel mio piccolo mi ha reso abbastanza. Allora, io però un'altra cosa che volevo sapere da Vittorio era questo: c'è l'ultimo capitolo oggi della vicenda Sarri-Mancini. Ah, sì. Allora, la cosa, io prima mi sono incazzato come una bestia, perché io dico, una volta che Mancini pone una questione di principio, che è quella, giusta o sbagliata che sia, dei ragazzi che addirittura si suiciderebbero per alcune frasi pronunciate, non allena in Inghilterra, in nessun paese questo, uno che dice Froce e Finocchio, insomma, se poni una questione diventi paladino del mondo arcobaleno e dei gay e delle battaglie cosiddette progressiste, beh, allora poi non è che accetti le scuse come ha fatto oggi, perché notizia di oggi è che Mancini alle Iene e in un comunicato con l'Inter ha chiesto ha accettato le scuse di Sarri, ma allora siamo nel ridicolo di che abbiamo... doveva accettarle subito, perché adesso in fondo non è che sia successo il fine mondo, no? Per questa cosa ci si insulta anche con un linguaggio da osteria, da bettola, e dopodiché non è il caso di farla tanto lunga. Certo è che tu poni un problema giusto. Nel senso, ma scusa, se tu ci hai fatto due coglioni così per 2 giorni, dicendo quello è un problema, un problema di principio e di diritto, poi accetti le scuse. Ma devi andare fino in fondo allora, no? Sei coglione. Beh, certo. O le accettava subito, cosa che io avrei fatto, perché a me sembra... del frocio non mi interessa niente. Se ti danno del frocio e del finocchio, che fai tu? Ecco, però io vorrei dire una cosa: che se un signore dà un altro signore del finocchio, cade praticamente la Repubblica, no? Sì, sì. Polemiche infinite, incredibili, articoli sui giornali. Ma se uno dà a me del puttaniere perché mi piace la gnocca, sì, allora nessuno muove un ciglio. Cioè tu dici, ormai c'è una Repubblica fatta, la Repubblica è basata sul politicamente corretto gay? Sì, sul politicamente corretto gay, che intendiamoci, io sono convinto che i gay meritino tutto il rispetto del mondo e tutti i diritti, sì, di cui godiamo, sì, anche noi. Matrimonio, non è, adozione. Non è però è possibile che si possa scherzare su tutti, persino sui carabinieri, che sono, sì, oggetto di 800.000 barzellette, ma sui gay non puoi neanche fare un sorriso, altrimenti sei omofobo. In quel caso non era un sorriso, non era un sorriso. Sì, non era, però insomma adesso cerchiamo di darci una calmata. Sì, no, ma io dico semplicemente che la follia è quella che tu fai una battaglia di principio sui giornali, interviste a Repubblica, no, in cui hai ragione, e poi alla fine cali le braghe in due giorni, dai, no, su. No, ma lì hai ragione, che probabilmente si è reso conto la società, le cose, ha detto. Sì, senti, un'ultima cosa. Ma io divento pazzo per l'espressione Family Day, cioè io vado al manicomio con le associazioni che fanno il Family Day. Ma che cosa significa? Che cosa significa Family Day? Cioè, guarda, questa cosa è veramente fastidiosa anche dal punto di vista. Quello è l'antifrocio day. Quello è l'antifrocio day. E basta. Ma poi che te frega se uno è frocio, se uno non è frocio? Io non riesco a capire. Poi il Family Day, la famiglia, è la cosa peggiore che l'uomo abbia inventato. Ecco, questo è interessante, sì. Perché è la cosa peggiore? Perché tutti i guai avvengono in famiglia. Cioè, non so se ricordi la famosa canzoncina, volgare però, che rende l'idea, sarà capitato anche a voi di avere un casino in famiglia, padre che scopa la figlia, il nonno finocchio che incula il marmocchio. Ma ecco, questa orribile canzoncina però dice la verità, perché non ho mai sentita la pedofilia si svolge in famiglia, non è che spesso accade nelle famiglie, sì, nelle famiglie succede tutto, sono dei grovigli di vipere le famiglie, cioè le famiglie sono il centro di qualsiasi nefandezza, diciamo, nefandezza. Hai detto, questo è il titolo, dunque altro che Family Day, anti Family Day bisognerebbe fare. Bravo. L'elogio dell'anarchia, l'elogio della solitudine, l'elogio della vita da diciamo quasi da. Ma scusa, adesso tu non so se sei stato sposato o no, ma mi sembra evidente che dormire con una moglie sia una cosa sconcia. In che senso? Scusa, Vittorio, una rottura di balle impazzesca. Tu è vero. Arrivi a casa, poi state a pace e vuoi dormire da solo. No, c'è l'abitudine nelle famiglie, sì. Secondo la quale l'uomo, il marito e la moglie dormono insieme. Ma è una cosa orrenda. Sì, magari vuoi farti il seghettino in salone da solo. Ma io non capisco perché. Ma sì, ma guarda, a me purtroppo, devo dire la verità, succedeva questo, perché era una situazione. Adesso non posso raccontarlo perché sennò succede un casino, non lo posso raccontare. Cioè, non lo posso raccontare. L'hai detto ormai. Sì, ma mi succedeva che ogni tanto andavo in bagno e mi facevo una sega, ragazzi. Ma che ambiente? Ma un bel ambiente. È l'ambiente di Miami. Ragazzi, ma che devo? Ma è un ambiente degradato. No, ma un uomo libero non si può fare la sega. Appunto, come puoi impedire? Ma perché uno dovresti essere talmente libero in un rapporto di coppia che ti puoi permettere anche questo? Invece, purtroppo, le convenzioni non te lo consentono. Non ti consentono di dire, guarda, io voglio stare in salone, spaparanzato lì e passare tutta la notte così, col braccio cadente, il bicchiere di whisky. Questa discussione. Invece che abolire l'omofobia, aboliamo la famiglia. Sì, aboliamo la famiglia. Interrompo la descrizione della masturbazione cruciale. Non volete che parliamo di Cooperlo? Forse è più interessante. Quello che Cooperlo oggi alla direzione del PD, no, non vi interessa come argomento. Scusa, Lorenzo, l'ha chiamata masturbazione, che è un termine orribile, perché deriva dal latino. Sì. Manu stuprare. Sì. Oddio, io non ho mai visto nessuno che si stupra con una. Quindi questo termine va abolito. Tu che sei diciamo così, tifoso del politicamente corretto, fai una battaglia per abolire il termine Manu stuprare. Masturbazione.

Pronto? Dimmi. Buonasera, ciao ragazzi. No, volevo intervenire sul fatto del ristorante che ha vietato l'ingresso ai bambini. Sì. Allora, partiamo dal presupposto che ai miei tempi, io ho 43 anni, non ti sto parlando di 50 anni fa, se andava fuori a cena io stavo buono e tranquillo con i cugini, eravamo anche un nutrito gruppo di bambini e non rompevamo le balle a nessuno. Sì. Quindi si parte dal presupposto che manca l'educazione dei bambini, ma ha ragione Parenzo a dire che non possono vietare l'ingresso ai bambini. Ma non è vero, lo possono vietare tranquillamente. No, non lo possono fare. Non lo possono vietare tranquillamente. Non c'è un ristorante che non accetta i bambini al di sotto dei 5 anni, non li accetta semplicemente. E se tu lo sai, non se ci vai. Se tu ti presenti con i carabinieri. Ma che carabinieri? Limite, Parenzo, dovresti fare questa cosa: presentarti con i carabinieri. Ma io infatti, ma lo so ma per, io ho detto certo, guarda che io ho detto di Udine, un ristorante ha ovviato il problema mettendo su tutti i tavoli il cartellino riservato. Entrava la coppia con i bambini, mi dispiace, tutto prenotato. Beh, ho capito, però sul momento puoi avere qualche dubbio là, puoi creare casino. Uno giustamente quello ha messo il cartello là, non vogliamo per alcuni episodi spiacevoli, non vogliamo i bambini sotto i 5 anni nei passeggini eccetera. Quali eccetera. Episodi spiacevoli? Ma che episodi spiacevoli? Hanno fatto casino, hanno fatto rumore, gli altri si sono lamentati, che ne so. E l'ascoltatore che ha chiamato prima, che ha detto che siamo al Ma insomma, ha fatto bene o ha fatto male secondo te? Non ho capito, ha fatto bene o ha fatto male? Ha fatto benissimo. Ha fatto voglia. Benissimo. Hai voglia che ha fatto benissimo. E l'ascoltatore che ha chiamato poco tempo poco prima del traffico, famoso, prima di Feltri, che ha detto dopo. Che siamo alla fine della famiglia, com'è? Forse è vero, ma forse è vero perché non c'è più l'educazione. Vabbè, ma educazione è un altro discorso. Grazie, ciao Alberto, Pavia. Alberto, vai. Dimmi, Gabriel c'è o non c'è alla fine sto gara? Sì, allora, ci sono. Adesso arrivo, aspetta, purtroppo non ti sentivo prima. Alberto, vai. Eccomi qua. Chiamavo perché sono profondamente convinto e ringrazio il ristoratore di aver fatto quella cosa di evitare ai bambini di andare al ristorante, per un semplice fatto. Molti chiamano e magari cominciano a dire ma questo è discriminare. Io ti posso dire che non ho mai visto una volta in vita mia un tavolo con persone con cui ho mangiato e che c'erano dei bambini che rompevano le palle in giro per il ristorante, nessuno ha mai detto ma no dobbiamo capirli, tutti che dicono è una gran rottura di coglione, poi telefonano di fronte alla radio, di fronte ai media, di fronte a tutto, fanno i buonisti, finiamola perché alla fine è così. Ma anch'io quando sento qualcosa in giro mi rompo i coglioni, un po' sono abituato e dunque non ci faccio caso, però capisco chi si rompe i coglioni, va al ristorante magari per stare a parlare eccetera, intorno c'è qualcuno che sfreccia là davanti, scivola, casini, pianti eccetera. Se un ristoratore non vuole e vuole scegliere la sua clientela, ha tutto il diritto di farlo, cazzo. Ma se non lo può fare, ma ragazzi, ma mica siamo come pensa di Parenzo in un regime semi-socialista che c'è lo Stato che ti impone. Detto la parola chiave molto bene, vedo che le indicazioni dell'editore iniziano ad arrivare. La parola socialista. In un paese normale, quale noi siamo nella libera repubblica della cosiddetta Confindustria, governata da Mario Capanna, ci sarà nei prossimi giorni un seminario sulle bambini. Ragioni del socialismo. No, ma questo quello sarà capito. Il grandissimo. Ma scusi Capanna, adesso colgo l'occasione, ma sulla questione dei bambini nei negozi ha già detto, sì, è vero, ha già detto lei. Bambini devono entrare ovunque, possono andare dove vogliono, una cosa importante è che prendano a calci nel culo i padroni. Ecco, questa è la cosa che noi insegniamo fin dalla nascita ai bambini, a odiare quelli che sono i proprietari dei mezzi di produzione, come si sarebbe detto all'epoca del cosiddetto marxismo / leninismo. Non capisco come mai nella trasmissione tutti convocati, trasmissione immonda, dove c'è questo signor Pardo, cosiddetto questo signor Genta, cioè non si capisce, parlano di calcio, rincoglioniscono gli italiani con questo pallone. Ma lei che cosa vorrebbe fare? Persone che corrono dietro un pallone. Io non capisco come si possa fondare una trasmissione radiofonica con due scalmanati, tal Genta e tal Pardo. Non sono scalmanati per niente. Tutti convocati a fare la rivoluzione. È l'unica cosa che bisogna fare in questo momento. Bloccare i mezzi di produzione. Vabbè, non mi pare una cosa intelligente. Nei tempi di crisi sblocca la produzione. Gabriel dalla provincia di Milano. Vai Gabriel, dimmi. Allora, io la penso così, se uno deve aprire un ristorante e non far degli entrare dentro i bambini, dovrebbe fare aprire un locale tipo quelli locali selezionati, ok? Quindi se è un ristorante, come fai un bambino a non farlo entrare? A parte questo, io una volta sono andato in un ristorante diciamo 5 stelle, tutta gente, sembrava tutta gente morta. 5 stelle, tutti guardavano dentro al piatto. Sono morti. Guardavano dentro al piatto, non parlavano, non sorridevano. Sembrava un posto. Allora, ma che cazzo c'entra? Ma ognuno fa quello che vuole al ristorante. Adesso non è che ci deve essere per forza al cinema con i bambini che saltano sui tavoli. Per te quella è felicità, per me è una rottura di coglioni. Scusa, abbi pazienza. Sì, ho capito, ma c'era una tristezza dentro lì. Allora, siamo entrati noi. Io ho un bambino, a quell'epoca aveva 4 anni. Appena entrati dentro, mezz'oretta ci è voluto. Tutti si guardavano intorno, tutti cominciavano a sorridere. Il mio figlio che andava, non dico che vabbè, andava. Ma ho capito, ma questo va bene. I bambini danno felicità, d'accordo, benissimo, questo lo sappiamo. Ma al ristorante qualcuno che non vuole i bambini potrà avere il diritto di organizzare il suo ristorante come vuole o no? Spiegami un po'. Al momento dell'apertura, se uno vuole aprire un ristorante, io voglio aprire un ristorante, non vuole i bambini dentro, ok, lo devi dichiarare. Se non lo dichiari, come fai a impedirli? Ma non so, se metti un cartello davanti, punto e basta. Vabbè, ciao no. Gabriel, no, quello l'ha fatto e per fortuna non c'è nessuno che lo impedisce. Luca, New York, ciao Luca. Da New York, perché gli ascoltatori chiamano pure da New York, podcast, eccetera, live, streaming, dimmi, Luca. Ok, grazie. Vai, dimmi. Pronto? Sì, dimmi, Luca. Salve a tutti, io volevo fare una... Non sto ascoltando perché chiaramente il fuso orario, normalmente vi ascolto dal podcast, sì. Ma vorrei introdurvi ad un nuovo business che è nato qui a New York, si chiama GuyFi. Parenzo lo sa che cos'è? No, lo sai. Come si chiama, scusi? GuyFi. No, spiegaci, no? Che cos'è? Allora, cosa succede? Hanno trasformato delle cabine telefoniche, sì, dove prima si usavano a telefonare, ora chiaramente non si usano più, in cabina per la masturbazione. Ma no, l'ho letta anch'io questa cosa, ma secondo me è una mezza cazzata. Luca, tu sei a New York. Io sto andando personalmente a controllare. Ah. Sono quasi qui, sono un po' affaticato. La 28esima. Sì? Se qualcuno vi ascolta a New York può andare a verificare anche lui, magari ci vediamo. Allora, qui. Tra la quinta e la 28esima dovrebbe essere ubicata una di queste cabine per la masturbazione. Ho letto questa notizia online, sì. Vediamo se è vero o no. Io so dov'è perché c'è il Museo del Sesto lì, sono già... Museo del Sesto. Allora, facciamo così, adesso, fra una decina di minuti, quando sei arrivato, ci dici se esiste questa famosa cabina per la masturbazione, tanto siamo in tema stasera, oppure abbiamo letto una grandissima bufala di quelle che girano ovviamente sul web. Fermi tutti. Cruciani, come mi stai sui coglioni? La Zanzara. Dite per piacere, aiutatemi, non ce la faccio più col mio ragazzo che scorreggia ogni secondo, ogni minuto, ogni secondo, una puzza in merda. Mamma mia ragazzi, che ascoltatori meravigliosi che abbiamo. Adesso non voglio leccare il culo a nessuno, però sapete che non faccio queste cose. Un ascoltatore dal Brasile, ma chi ce li ha gli ascoltatori dal Brasile live, Parenzo? Gente che ascolta in macchina, con non so in che modo, con chiaramente con i mezzi tecnici a disposizione, con internet, la Zanzara. E che istruzioni per la guerra? No, aspetta, no, munirsi no, di casco no. Da motociclo, occhiali da sole e cappuccio per non farsi riconoscere. Vabbè, allora uno mi manda una foto con una ragazza brasiliana, naturalmente. Pronto, chi è con questo? I pantaloncini corti, un ascoltatore del Brasile, e mi scrive: se l'imam di Colonia viene in Brasile diventa ateo. Scattata ora benzinaio con una signorina, una gran figa brasiliana. Signore imam di Colonia che deve andare sempre a fare in culo, serenamente a fare in culo. Imam di Colonia, vaffanculo! Allora, abbiamo con noi, caro Parenzo, il leader del movimento Con Cristo per la Vita, che organizza praticamente una 3-4 giorni per i Family Day a Roma. Si chiama Lino Nasato. Buonasera, Nasato, come sta? Bene, bene. Come andiamo? Come va la vita? A proposito, la vita come va? Meravigliosa. Meravigliosa. Senta, bene, cosa avete progettato per questo meraviglioso avvenimento, stupendo, straordinario, a sostegno della vita, della famiglia, che è il Family Day a Roma del 30 di gennaio? Lei quanto tempo prima andrà a Roma? Intanto noi andiamo il giorno 26, andremo in piazza del Pantheon a sì. testimoniare per la famiglia sì. e Scusi, per la vita. Che andate sì. a fare quattro giorni prima a Roma, dal 26 al 30? Gita. Sì, rimaniamo un giorno, dopo veniamo a casa, dopo andiamo su ancora. Sì. No, ma dal 26 al 30 che fate ogni giorno? Andiamo là a testimoniare al Pantheon. Cioè, state fermi al Pantheon quattro giorni? No, staremo là solo due ore e mezza staremo là. Davanti al Pantheon ci saranno ragazzi di Roma sì. e noi del Veneto saremo là a testimoniare per la famiglia, la grande mobilitazione a testimoniare per la famiglia in piedi. Aspetta, c'è anche un grande manifesto che è stato fatto, giusto Nasato? Sì, sì, il movimento Con Cristo per la Vita organizza il viaggio in pullman con picnic a 50 euro sabato sì. 30 gennaio a Roma. Da Treviso partiranno due pullman da Treviso, benissimo. Da Treviso, ecco. No, uno da Vicenza, uno da Treviso, uno da Trieste, poi da Milano, insomma siamo tutti. Chi sono queste persone? Siamo 50.000 consacrati. Pensate, 50.000 consacrati ci saranno. Che vuol dire consacrati? Scusi, 50.000. Hanno preso i voti, non lo so. Siamo 50.000 consacrati alla Madonna. Che vuol dire 50.000 consacrati? Cioè, gli aderenti a questo movimento Con Cristo per la Vita, quanti siete? 50.000? 50.000, ma senza contare dopo che ci sono il padre e la madre, insomma noi consacrati siamo in 50.000. Che vuol dire consacrati, scusi? Dire no. Dediti, non lo so. Non è questo. No. Noi niente, abbiamo promesso a Maria di difendere la famiglia, ci siamo consacrati per difendere la famiglia. Ah, avete promesso a Maria di difendere la famiglia. Con la preghiera, con il rosario, certo. con la Santa Messa tutti i giorni. Però mi pare che il primo nemico sia questo signore che conduce la trasmissione qui, come si chiama, Cruciani. No, io no, assolutamente. È un nemico della famiglia, no, signor Cruciani. No, ma assolutamente no, ma per niente, assolutamente. Scusi, ma la preghiera più importante che si deve fare in questi casi, qual è, diciamo, la preghiera che è quella per il sostegno della famiglia contro le unioni gay, qual è la preghiera, diciamo, base? La preghiera... No, la nostra, la preghiera base noi è il Santo Rosario e la Santa Messa. No, ma c'è una preghiera simbolo di questa battaglia, enorme? No, il Rosario è tutta una battaglia, perché dicendo il Rosario è la cosa più bella che si può fare. Capito? Certo. Senta, io voglio capire una cosa. In questo volantino c'è scritto: gli atti impuri contro natura sono peccati che gridano vendetta al cospetto di sì, Dio. Lei forse, non so se ha mai letto la lettera di San Paolo ai sì. Romani. Ecco, a lei che cosa intende come capitolo atti impuri? Capitolo 1 e versetto 26-27. Sì. Sì. Dovrebbe leggerlo, allora saprebbe cos'è. Hai capito? No, ma gli atti impuri cosa sono, caro Nasato? No, siccome che questi signori hanno abbandonato, come parla San Paolo, sì. hanno abbandonato la donna, chi? E si sono uniti con questi uomini, si uniscono a questi uomini qua, hai capito? Cioè non ho capito, chi si unisce? Vanno contro natura, proprio contro natura. Ah, lei dice che i gay sono contro natura? I gay sono contro natura, lo dice anche San Paolo, bene, chiaro. Però San Paolo, no, però questo potrebbe anche avere un senso. Fatto che dica San Paolo, però. No, allora, i gay sono contro natura. Gli atti impuri quali sarebbero? Ma si lasciamo perdere adesso. Gli atti impuri quali sarebbero? Insomma, basta domandare, quelli che vanno con gli uomini cosa fanno? Fanno questo, insomma, degli atti impuri. Cioè la sodomia, lei dice. Si uniscono tra uomini, hanno abbandonato la donna e si uniscono gli uomini. E le donne che vanno tra di loro come la mette là? Uguali, stessi peccati sono. Però lì non c'è la sodomia, non c'è la penetrazione. Scusi. Ma no, guardi, lei, siccome che non, lei prima di tutto se legge, deve leggere bene la lettura di San Paolo e là trova tutto. Trovo tutto. No, ma anche la donna, era una curiosità mia. Dio li ha abbandonati a queste passioni infami, rapporti naturali, rapporti contro natura. Commettendo atti ignominiosi, uomini con uomini. Donne con donne. Ammucchiate, cose di questo tipo, le dice. Volevo dirle una cosa. Mi dica, caro. lei c'ha un compito molto importante. Qual è il compito? Dovrebbe consacrarsi alla Madonna, allora farebbe un gran bene, e noi pregheremo proprio per lei, per questo, perché c'è un ruolo molto importante, ha capito? Sì. E dunque io, come si fa a consacrarsi alla Madonna? Mi può aiutare? Sì, no, prima di tutto noi ci impegniamo per lei, chi si consacri alla Madonna, con la preghiera lei può consacrarsi alla Madonna, sì. Capito? Si avvicina alla Madonna. Sì, no, ma è interessante questa cosa. No, ma adesso non lo dico ironicamente, lo dico sul serio, caro Rino. Cioè, volevo capire come si fa a consacrarsi alla Madonna, perché potrei anche provare a consacrarmi alla Madonna. Magari la mia vita migliora, o no? La vita no, la vita è bellissima. No, la mia vita migliora, dico, no? Migliora, sicuro che migliora, per forza migliora. Ma scusi, ma questi gay hanno... Deve avvicinarsi ai Santi Sacramenti. Certo, si avvicina ai Sacramenti, alla Santa Messa. Sì. Dopo viene anche questa consacrazione alla Madonna. Cioè, scusi un attimo, ma questi gay hanno così potere, è un potere così forte quello degli omosessuali, secondo lei? Ma non è, devono rimanere al suo posto, non hanno potere. Devono rimanere al suo posto. Io non li voglio male, questa no. È solo che non vanno a fare queste dimostrazioni per le piazze mezzi nudi. Cosa vanno a fare? Danno solo scandalo. Devono rimanere al suo posto, nessuno li vuol male. Perché che li vuol male a ma, queste persone? Cioè, non devono... Sono creature di Dio, sai. Per esempio, non possono baciarsi per strada. A me non fa niente, ma i bambini cosa vedono? Vedono un atto d'amore, vedono un atto d'amore tra due persone. Ma che amore, sono tutte robe egoiste, capito? Cioè non c'è amore tra gay, lei dice, tra omosessuali, no? Ma lo dice San Paolo stesso. Ma sono no, San Paolo non lo dice. Cose io ho capito stava di San Paolo, però... sono cose voglio dire, ma l'amore, ma che amore è questo? Dai. Non c'è tra due donne, tra due uomini, non ci può essere amore. È solo peccati sono e basta. Peccati. Non sono altri. Lo sai che mi sta quasi convincendo su questa cosa qua? Avrei piacere, io prego anche per lei, sa. Sì, lo so. Noi preghiamo anche per lei. Per me non occorre perché io sono un'altra volta. Parenzo. No, per me non occorre, dico, perché io comunque sono di un'altra parrocchia. Parrocchia, diciamo, ma comunque va bene. No, ma gli ebrei invece come la pensano su questo, secondo lei? È diversa la cosa, Lino? Beh, no. Io non so, guarda, gli ebrei, io sono cristiano, guarda. Certo. Gli ebrei lo riconsidera, cioè. Ha già la sua blasfemi pure no, gli ebrei. Sì, credo, magari, spero di no. No, come li considera gli ebrei? Blasfemi pure lei, no? Gli ebrei? Sono fratelli maggiori, come l'ha detto Papa, Papa Francesco. Ma, e Papa... Meno male. No, non so, ma come crescono i bambini? Come crescerebbero all'interno di una famiglia omosessuale, secondo lei, tra due uomini? Fra due, cosa credo? È solo uno scandalo, non c'è altro da dire. Ma come vengono tolti? E dico una cosa, lo dico anche a Renzi. Diciamola forte. Renzi, che è uno scout. Cattolico, sì. E non dice una parola in favore della famiglia naturale, non lo dice. Fatto la legge. È uguale alla Boschi, cioè? Persone cristiani battezzati. Renzi, le dico, lo diremo davanti al Papa. Renzi, mai una parola in favore della famiglia naturale, mai una parola. Che c'è il demonio? Chi ti ha dato questo potere? Guarda che te l'ha dato il Signore questo potere. No, dobbiamo dire a Renzi, reale. Renzi, cioè, cosa Parlamento. Fai? E il Parlamento non conta, scusa? Il Parlamento uguale, vedi cosa fanno. Cioè conta più il Signore, conta più il Vangelo, conta più che il Parlamento, secondo te? Cosa vuoi che... Ma chi ha dato questo potere? L'ha dato il Signore a questi personaggi che il Signore, sono al governo? No, il Signore no, chi l'ha detto? Il Signore? Non è detto che sia il Signore, veramente gliel'ha dato. La Repubblica, ma guarda, l'ha nominato. Ma guarda che... Sono messi là. Chi ha dato questo potere? L'ha dato il Signore a questi personaggi. Beh no, veramente il Parlamento, il Presidente della Repubblica. Sono deviati proprio, sono personaggi che... Cioè, non c'è, non... La Cirinnà, che cos'è? La Cirinnà è il demonio, secondo te? La Cirinnà? Mi dispiace perché per questa persona so che c'ha due o tre matrimoni, sì, che ha fatto là. Ma è da pregare solo per questa persona qua. Che anche Gesù, quando ha salvato quella donna... Sì. La prostituta ha detto vai e non peccare più, e questa è la cosa. Bisogna, si pecca tutti i giorni, anch'io pecco tante volte. C'è una peccatrice, ma c'è il demonio. Il demonio si è insediato all'interno del governo, secondo lei? Tra massoneria e il demonio, là è tutto là ormai. Massoneria. Lei massoneria. Di cosa si occupa nella vita normale, quotidiana, diciamo, oltre a tutto questo? Come? Cosa che faccio io? Sì, nella vita. Di cosa si occupa? Sono pensionato e dopo facevo il restauratore. Ma i comandamenti sono più importanti della legge, secondo lei? No, i comandamenti sono leggi, leggi fatte da Dio. Non sono proprio leggi, cioè non è proprio così. Non le rispettiamo. Ma quella è la teocrazia, però, è una cosa un po' diversa. Ma cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Sono leggi fatte da Dio e non le rispettiamo, quello è il brutto. Se le rispettassimo sarebbe tutto a posto, il mondo sarebbe tutto cambiato. E senti, invece... senti, facciamo una cosa, possiamo fare una preghiera per me? Io lo faccio questa sera, io lo faccio per lei. Facciamo una preghiera adesso. Sì, per me non importa, guardi, grazie. Per me come fatto non serve, si concentri su Cruciani. Che tanto preghiera possiamo altri... fare adesso? 20 secondi di preghiera, così, tanto per così sì, mi preparo. Non... Che preghiera posso fare? Padre nostro? Che vogliamo fare? Padre nostro e un'Ave Maria, la Madonna l'aiuta, sai. Come la fa l'Ave Maria? Non mi ricordo. Non si ricorda. Ave Maria, piena mamma, di grazia, come la fa? La sua mamma, vedi che la sa, la sua mamma le avrà insegnato e che sì. Si è dimenticato. Mi di sono dimenticato. Cose. Ave Maria, piena di grazia, Signore. Come fa? Lino, non me la ricordo, aiutami tu. Non sa l'Ave Maria? Non me la ricordo l'Ave Maria, non frequento da un po' di tempo quei posti. Ave Maria piena di grazia, dai che la sai. Non la so, Ave Maria piena di grazia, come fa? Aiutami tu, lo sto dicendo seriamente. Il Signore è con te, pensa, il Signore è con te. Poi? Tu sei benedetta fra tutte le donne. Sì, poi? E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dobbiamo rendere conto a Dio, sa, verrà il giorno. Eccolo qua, l'ho trovata. L'ho trovata. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo servo Gesù. Del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E i froci? E i gay? Ma il Signore li vuol bene, basta che stiano al suo posto. Ma al suo posto che significa? Non capisco, al suo posto. Come li ha, sono dentro stati casa, creati, dentro, ma sono malati secondo lei? Sono malati? Ma no. Possono guarire? O guarire o non guarire, devono rimanere al suo posto. Ma che vuol dire al suo posto? Ma non corre che vanno sulle piazze a manifestare quella... Cioè devono stare dentro casa, Ma quando che li vede nelle piazze mezzi nudi che si baciano quella... Ma danno sono scandalo, che stiano al suo posto. E i trans? E i signori trans? Ma uguale, ma sono un po'... Io, guarda, noi preghiamo sempre per queste persone. Preghiamo. Dobbiamo pregare. Preghiamo. A presto, facciamo un'altra preghiera in settimana in avvicinamento al Family Day, va bene, d'accordo? Aspetto il Pantheon. No, anche prima del Pantheon, facciamo una preghiera al giorno che va bene. A domani, anzi no, a lunedì 18:30, ciao. Radio 24, la passione si sente.